Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene dopo puzzetto. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma no? Ma che? Ah? Galla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi chi? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. No, idioti, basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Buonasera a tutti, signore e signori di Runtime Radio. Sono passate le ore 21, con una certa calma, ma con tanta persistenza. Ci siamo noi, quelli di OGM Soch Media Edition, Walters Burns. Brutta sera a tutti, buon lunedì, bentrovati dopo due settimane di assenza ingiustificata, che però mi è piaciuto, potremmo anche ripeterlo. Sì, infatti abbiamo ripetuto. Sì, abbiamo già ripetuto. Non so se mi sentite, io ho un asset sparatissimo nelle orecchie, ma per il resto vai tranquillo. Vado tranquillo. Se come... sente. Bene, allora ragazzi, bentrovati. Ma perché poi anche insomma, soprattutto quello che bisognerebbe sempre dirlo, Mark Walters. Direttamente dal grande successo di Ho visto cose. Dopo ne parlerò di cesso. Dopo sì, anche tu parli di cesso. Dall'altra parte del non so dove c'è anche Carmen Pooch Council. Carmen Consoli? No, se gli parli sopra non lo sentiamo che dice. Neppure io ho parlato sopra, ci siamo tutti a parlare sopra a Carlo. Ci stiamo affastellando uno sull'altro. Però ripetilo quello che hai detto, perché deve essere interessantissimo. Sono dall'altra parte del multiverso. Verso, va bene, ragazzi. Oggi sono un'altra versione di me. Di te stesso. Il famoso putiverso. Il Pucciverso anche un pochino. Pucciverso, sì, perché il putiverso è quello che piace a Putin. No, il putiverso è quello di Putignano, ragazzi. Guardi, io però avvicinati al microfono. Oppure avvicina il microfono a me. Avvicina il microfono a te, ancora meglio, sì. Vedi, bello. molto meglio. Non devo fare neanche troppa fatica. Oh, raga, 15 anni e sto sketch funziona sempre. No, ma non è uno sketch, è quella la cosa più inquietante, capito? Cioè, è da 2010 che va avanti sta storia. Comunque, benvenuti ragazzi dopo due settimane di assenza per un motivo importante o per un motivo meno importante o l'altro. Insomma, non ci siamo stati durante queste due settimane, ma questo ci è servito perché ci ha corroborato chiaramente con tanta energia, tanta forza, tanto c'era da fare un cazzo, raga, è inutile che però siamo qui e siamo qui per prendere il meglio dei social media, così come però che è successo durante queste due settimane? È successo tante cose, successe. Siamo nella merda. Quello decidete non, voi questo, da cosa vogliamo partire. Quello non è successo queste due settimane. Questo è allora, diciamo. Beh, c'è stato un discreto aggravio però. Aggravio. Sì. Dica Puccio. Ha chiuso la banca che pagava gli stipendi delle start-up della Silicon Valley. Questo è solo l'ultimo dell'elenco, diciamo che insomma tirare una bruttaria. Sto scrivendo da Quora, se la cosa più vera vi no può no ah ecco ecco vedete diciamo nelle due settimane che cosa è successo, perché non potevamo fare le puntate, non potevamo fare le puntate perché per protesta, no? Cioè, la nostra redazione diciamo si è riunita in uno sciopero collettivo a favore di Puccio, Carmine e Console, perché viene bannato da Quora, viene bannato ripetutamente anche da Quora. Noi all'inizio pensavamo che fosse una sorta di persecuzione politica e ideologica, in realtà abbiamo capito che è Puccio che è un po' cretino, insomma, sono io che va là, insulta i vecchi e giustamente quelli se fanno risentire. Vabbè, ma di questa cosa parliamo più avanti. Vi spiego, in realtà c'è tutta una serie di questioni legata a Quora che magari sono più interessanti, ma ne parliamo dopo, più avanti. Allora, che non siano legali, allora sapete che vi dico, io lascio l'onere e anche l'onore, perché di fare un po' un sunto della situazione a Walter Sbano. Cos'è? Un asset da creator? Sì, è bello. Adesso mi sento senti un po' investito di responsabilità. Bravo, ti sei stato investito. Allora, intanto saluto Luca S. e Peppe Rizzard, immancabile ma popolo fa di OGM, voi, ma chi ve lo fa cioè, fare? Esatto, e ragazzi, allora, poi tra l'altro, ma io questa cosa segniamocela, perché io a questo punto vorrei un celebrity deathmatch tra Puccio, che è l'offenditore di anziani, e Geronto Gamer. Esatto. Però vabbè, un domani. Sì, allora, tutto in sceneggiatura. Puccio versus vecchi di merda. Esatto. Ragazzi, detto questo, vabbè, noi veniamo da due settimane che non ci siamo sentiti, abbastanza brutte sull'ambito sociale. Che noi veniamo. No, io ultimamente no. Però sei stato anche ottimista in due settimane. Infatti, usa un altro termine. Sì, infatti, diciamo, siamo reduci. Reduci, bravo, reduci. Da due settimane brutte, perché purtroppo condite da tragedie del mare, da una classe politica che ci fa vergognare quotidianamente. E che non si vergogna, però. No, anzi, cioè, quelli stanno proprio a squazzare nel loro brodo, non gliene frega un cazzo di noi, ce lo dimostrano tutti i santi giorni. E quindi, anche se poi avevamo raccolto delle cose in queste due settimane, poi purtroppo molte cose sono passate da, sono state superate da eventi ben tragici, tant'è che insomma nell'ultima settimana, 10 giorni, i social hanno preso un andazzo anche fin troppo serio, perché ovviamente non è facile sdrammatizzare quando certe cose sono veramente a un livello assurdo. Però io una cosa me la sono conservata dalla settimana scorsa e ve la volevo riproporre, perché sapete, no, che c'è in atto questo bruttissimo tentativo di normalizzare il fascismo, no? Questo lo diciamo praticamente tutte le puntate. Ma una cosa che ci siamo persi nelle settimane scorse è quando Senaldi, io c'ho uno snippet preso in realtà neanche dai social, ma da un titolo del sito della 7D, perché è tratto da una puntata di In Onda, in cui Senaldi, giornalista di Libero, afferma, ragazzi, poi traete voi le considerazioni, la Costituzione l'hanno scritta anche i fascisti. E tutto sommato, lo sai qual è il problema? È che non è manco tanto sbagliato. Oddio, quelli della Repubblica di Salò, sì. Perché ricordiamo sempre che comunque tutta la nomenclatura e tutto l'apparato politico, alla fine, successivamente all'era repubblicana, sempre quello era. Cioè non è che è cambiato. Un giorno alzava il braccio e l'altro giorno faceva il gesto d'ombrello, ma comunque è sempre quello. No, nel senso che è drammaticamente verosimile quello che ha detto, e questa è la cosa più inquietante. Quindi tu dici che hanno lasciato dei cavalli di Troia, per far rientrare il fascismo, una backdoor per il codice fascismo. Nel codice della Costituzione. Puccio, una backdoor per il fascio. C'è sta. Ma è come Matrix, è presente, vuoi la pillola nera o la pillola gialla? E poi scegli. Non era la rossa e blu, scusate. No, è qua è nera e gialla, perché c'è una riscrittura. Nera e gialla. Il problema è che quella gialla è pipì. Esatto. È pipì. Ok, scusate. Ma è alla fragola. La pipì alla fragola. Bene, bene, quindi iniziamo bene, Walter, continuiamo, ci piace questo. Ma in realtà, vediamo un po', allora, andando poi nello storico delle due settimane trascorse, ragazzi, parlo specificamente di Twitter, c'era questo personaggio che si è reso famoso per tutta una serie di tweet abbastanza inappropriati, che, insomma, ha avuto il suo momento di gloria, è stato blastato a destra e a manca, poi in qualche modo il fenomeno è stato sostituito da altri. Sto cercando tra gli altri ragazzi un incel che è diventato questa settimana, da praticamente dal giorno della festa della donna in poi, protagonista, però è stato massacrato da qualunque persona che su Twitter fosse anche giustamente vagamente femminista, non soltanto dalle donne, proprio il fenomeno incel dell'anno, ma quello lo devo ripescare e ve lo trovo dopo. La cosa divertente invece era questo Marco Miscio, che era questo personaggio che nella biografia si descrive: italiano, MM Multiservice, penso che sia la sua azienda. Poi aggiunge SS Lazio. Poi aggiunge conservatore e nazionalista. Poi aggiunge vivo ricordando di osare sempre. Poi ci fa sapere papà di, vabbè, due bambini e del cane. Scusate, ho intruppato il microfono, bene. Poi insomma, come location nella sua biografia si localizza a San Giovanni Rotondo. Quindi Puccio, okay, vai a cercare questo Marco Miscio, per la verità. No, ora che vado a comprare la statuina di Padre Pio con la sciarpa della Lazio per Simone, vado e lo cerco. Comunque effettivamente il cognome è di queste parti, non è... Sì, sì, ma infatti mi stupisce che sia un tifoso della Lazio, perché dico, non mi pare esattamente di Roma. No, comunque, ma ce ne sono, in Puglia ce ne sono. Ma guarda, ultimamente ho scoperto, successivamente poi a questa cosa che ci aveva già comunicato ovviamente Walter, mi sono documentato e in effetti ci sono delle colonie sparse inquietanti devo cioè dire. Di tifosi della Lazio, tifosi di altre squadre nelle varie regioni, però la Lazio, diciamo che... No, perché io sono abituato a Milan, Juventus, Inter. No, invece ce ne so, vabbè, dalla Roma e dalla Lazio ce ne so tanti, molti di più di quanto ci aspettavamo. No, sapevo. Solo che probabilmente alcuni vengono da estrazioni politiche, e questa forse è la cosa un po' più drammatica. Vabbè, sì, il problema è questo, e poi alla fine... Però per esempio c'è uno youtuber laziale abbastanza conosciuto, che è De Genova, che lui non c'ha niente a che fare con... per esempio con la politica, e non c'è neanche parenti laziali nel senso del Lazio, cioè lui è nato lì per simpatia, ha deciso così. Vabbè, ci può stare, però insomma uno lo associa più alle volte a fenomeni, diciamo, di estremismo politico, e questo purtroppo diciamo che il discorso di base è quello. Comunque ragazzi, poi dopo ricordatevi che ho trovato una cosa meravigliosa. Ok, questo tizio, diciamo che non smentisce poi, come dire, lo stereotipo, perché ovviamente si è definito lui stesso conservatore, vi potete immaginare il tenore dei post, dei tweet che manda su Twitter, che io adesso vi faccio, vi linko proprio il suo profilo, così poi eventualmente se gli volete scrivere per manifestargli un po' di solidarietà lo potrete fare. Cioè, solidarietà in che senso, scusa? No, nel senso, beh, se era ironia. Per esempio posta questa cosa che dice: sono meravigliosi a sinistra alla manifestazione di Cutro a favore dei migranti, in prima fila c'era Mimmo Lucano, condannato a 13 anni per reati inerenti proprio ai migranti, semplicemente vergognosi. Ma io, di fronte a uno così, no, ma che devi fare? Cioè, poi insomma, nel tentativo di riscrivere tutta quella che ovviamente è la retorica populista, cercando di rilanciarla contro la sinistra, se la prende con Elish Lane, se la prende con qualunque tentativo di umanizzazione dei drammi. Elish Lane in realtà si chiama Elish Slime. È stata ribattezzata così da mia amica. Ma chi è Elish Slime? Allora, chi? Attenzione, perché no, non è così. Ma poi vi racconto. No, poi bisogna stare attenti, perché oggi, peraltro, sul Fatto Quotidiano è uscita fuori una vignetta caricaturale, è un articolo su Elish Lane, che è di un... cioè, te la saresti aspettata, di un livello di antisemitismo che te la saresti aspettata... Da Libero. Da lì, ma invece dal Fatto Quotidiano, una cosa di un brutto, però vabbè. Strano, però, ma, strano. Beh, non è che, diciamo che il Fatto Quotidiano tende a essere un po' l'equivalente a 5 Stelle di Libero e di altri giornali, purtroppo, perché non era partito così, ma ormai veramente hanno perso completamente la bicocca. Comunque, per esempio, Peppe Rizzard, riguardo a questo Marco Miscio, dice: che gli devi fare? Gli devi andare a menare. Come dire? Allora, secondo me, se aspetti, se mena da solo. Bah. Considera che insomma lo farebbe, perché pur di raccontare che magari è stato menato dai cattivoni di sinistra, magari il classico tipo, sai, alla Belpietro che si inventa gli attentati. Però vabbè ragazzi, però prima di entrare su cose un po' più drammatiche, un po' più a bomba, non lo so se ci vogliamo così togliere la pillola di Pillon della settimana, così poi ci andiamo subito. Ma sì, dai. Dai, dai, che vediamo, vediamo. Possiamo parlare degli Oscar, che a me no. No, poi aspetta, perché io poi c'ho un altro fatto, diciamo, un incidente, una di quelle cose però riportate dai social, perché voi sapete che i social hanno questa cosa che oggi documentano più o meno tutto, no? E ci sono poi delle cose brutte, però prima andiamo con... Ma per esempio un post Pillon. Di Pillon... Dobbiamo fare la canzoncina però innanzitutto. Vai. Vabbè. Che Pillon combina guai. Vabbè, facciamola però, cioè siamo venuti del giorno in cui fa la trasmissione. Ah, adesso lo dobbiamo fare. No, adesso. Quando sarà? Ah, ok. Quando sarà? Che ne so io quando sarà? Quando mi ricordate? Quando sarà sembra il titolo per una soap opera di Runtime. Quando sarà? Quando sarà? Dimmi quando il sarà. Il giovane Manuelito sarà. Andava a letto con Ivalita. Andiamo, forza, facciamo un pillo. Ecco, dai, non sei in forma questa sera. Prego. Beh, insomma, il 3 marzo questo Pillon ha... incollando una vignetta di due pupazzi di neve che parlano tra loro, uno dei due dice all'altro: non dire stupidaggini, nessuno ci ha costruito, ci siamo evoluti casualmente dai fiocchi di neve. Perché dice tutto per questo, per dire cosa? Per dire buongiorno amici, la ragione non è mai antitetica alla fede, essere credenti non significa essere creduloni, anzi qualche volta è vero il contrario. Davanti alla creatura è molto più logico e ragionevole credere al creatore piuttosto che insistere di un vacuo laicismo. Cioè dici, vuole dire che... Io comunque voglio dire che secondo me lui manco luce crede a tutte queste cazzate che dice. Perché io comunque ho parlato con gente seriamente religiosa, anche con, cioè non fanno questi discorsi imbecilli. Questo, cioè, tu o sei un cerebro leso, una persona culturalmente inadeguata, e non è il caso di Pillon, perché comunque non è uno stupido, cioè nel senso, evidentemente questi giocano su Pillon questo per costruire la loro personaggio. Esatto, esatto. Oppure come Renzi usa il bancomat, no? La famosa tecnica del bancomat tribunale. Lasciamo stare che Renzi, a furia di perdere cause, oggi l'altro giorno ne ha vinta una che lo ha reso ancora più squallido, potremmo dire, di solito. La vecchia di 72 anni. Ha praticamente vinto 500 euro e storto, diciamo così, in tribunale 500 euro, una vecchietta. Vabbè, però pure i giudici. Vabbè, però ha scritto che non li vuole. Ah, vabbè, ci mancherebbe altro. Ecco, appunto. Ragazzi, cioè, no. Vabbè, però, no. Dove possa stare sul cazzo il soggetto. Cosa che capisco perfettamente, però cioè manco è normale che te puoi scrivere peste e corna di chiunque e aspettarti che... No, aspetta Puccio, ma non è quello. No, secondo me la questione è un po' diversa, perché se sei un politico ti esponi al giudizio ma io non so che cosa ha scritto la vecchia, che è uno stronzo, una cosa per carità. No, ma non al di là del, cioè qui il pesante. Che ci fosse stata un'offesa, ci posso anche stare, ma fa parte del gioco delle parti, per come la vedo io. Se tu da politico e da uomo di potere porti in tribunale l'individuo, l'individuo che ti offende, ma che fondamentalmente ha solo ed esclusivamente questo piccolo sfogo di rivalsa contro di te, cioè, la cifra umana è bassissima. Poi che ovviamente non bisogna essere d'accordo con quello che la signora ha detto in quei termini, non è perché non discuto il fatto che Renzi in quel frangente potesse avere ragione di sentirsi offeso, però è un equilibrio. No, scusa. È un equilibrio, tu sei un personaggio di potere sufficientemente ampio da dover soprassedere. Poi se invece a offenderti in un certo modo è un giornalista dalle pagine di un quotidiano, gli fai causa, se vinci bene, se perdi male, e nessuno avrà da ridire. Fa parte di un equilibrio di gioco delle parti. Ma se te la prendi con l'elettore non amico, e allora stai facendo un abuso di potere. Secondo me, cioè, prima o poi o scegliamo tutti quanti una calmata, come dire, perché il problema è che tu puoi dire tecnicamente quello che ti pare, il problema è che dopo te ne devi assumere le responsabilità, perché è facile dire vabbè io su questo sono d'accordo Puccio, però è vero pure che il problema è che essendo la politica essendo la politica che ha fatto diventare questa cosa un sistema, esatto, ok, perché allora io posso anche non essere d'accordo di principio, devi prendere esempio, cioè, So, però ho capito, però Puccio, se io ti dico, io sono il cittadino e vedo Renzi, vedo che ne so, quell'altro lì, Salvini o roba del genere, che dicono qualsiasi cosa gli passa per la testa sui social media. Allora io che so il cittadino, che magari ho comunque meno, come posso dire, meno presupposti anche dal punto di vista culturale, non posso essere da meno, cioè capito, non te puoi lamentare del fatto che la gente fa questo, cioè per quanto sia giusto il discorso che fai te, il problema è che se tu prendi il social media e il politico fa diventare quel tipo di linguaggio un sistema, lo innalzi al sistema, sì, questa è la conseguenza. No, esatto. Ma non solo, il politico lo fa godendo implicitamente di una immunità de facto, perché gente come Gasparri, gente come La Russa e tanti altri offendono biegamente sui social chi gli passa davanti, dandogli del figlio di puttana, del vecchione, del fratello, tutti quelli che vuoi. No, già ovviamente... Salvini già solo l'altra settimana è stato comunque paraculato dal Parlamento, perché non ha dato l'autorizzazione a procedere sul fatto che lui andava a dire che la capitana di una nave, di un vascello, era una zecca comunista. No, vabbè, ma io lo sto portando ad un livello ancora più terra terra, facendo appunto degli esempi ponderati di personaggi che sui social, in particolare su Twitter, si permettono liberamente un linguaggio. Sì, ho capito. Gretto, dopodiché comunque. L'opposto è no, e allora io da politico ho il potere di. Io mi posso permettere di querelare chi mi pare, perché la querela ha un costo che per il normale cittadino è alle volte inaffrontabile ed è anche. Rischia anche di avere un esito. La maggior parte delle volte è inaffrontabile. Rischia anche di avere un esito assolutamente nefasto, perché posso anche aver ragione per la legge, ma il modo di proteggere il politico dalla mia querela ci sarà sempre. A parte invertite, voglio dire, è una lotta impari, non ha senso quello che... Vabbè, comunque, abbiamo capito che Renzi è un pezzo di merda, questo... Però non la, io però lo possiamo dire. Io non l'ho detto, io non l'ho detto, esatto. Comunque, volevo raccontare una storia triste, ragazzi. La sensazione che Puccio è in cortocircuito. Puccio, che stai a fa? Scusate, no, niente, stavo pulendo il microfono un attimo. Ho capito, ma... Cioè... Ma lo fai soffiando almeno il naso sopra. Esatto, disattivalo prima, scusa. Scusate, avevo premuto l'apposito task. Comunque io volevo raccontare una storia triste, ragazzi, che viene direttamente dai social. Allora metti la musica triste, mi spiace. Aspetta. Sì, in effetti sì, guarda. Perché questa è una storia triste che va vista da due lati, da due punti di vista, ed entrambi i punti di vista sono dei punti di vista drammatici, cioè nel senso che non puoi dire che in questa storia c'è chi vince e c'è chi perde. Perdono entrambe le parti. Il protagonista principale di questa storia è un non vedente. È questo non vedente che va in giro con un cane. Che lui ha tutto il diritto di andare in giro con il suo cane, però poi la guida ovviamente il cane non lo tiene a bada, non lo sa controllare, no, purtroppo, e questo cane aggredisce insomma una signora. Ora io so due settimane che in giro con sto video e ridono, che ovviamente è un fake, insomma la famosa storia di relax e shadow stop shadow. E lui la cosa incredibile di questa scena, riscrivila, sì, infatti la, no, ma adesso la faccio sentire, perché secondo me va sentita più che vista, allora, sentire vista farite, allora. Vista farite, però no, il problema è che adesso ho trovato un video, Marco, una cosa incredibile che continua, cioè, nel senso c'è oltre tutto quello che abbiamo già visto, capito? Quindi è una cosa incredibile. Comunque lui praticamente è uno scherzo, una sorta di candy camera di lui che va in giro con sto cane, che se tu lo guardi, io la prima volta che l'ho visto non mi sono reso conto che era uno scherzo e ho empatizzato con la signora, però poi dopo quando lo vedi, e anche in altri video, perché finalmente sono riuscito a trovare gli altri video, cioè si vede che il cane non cammina, cioè lui lo trascina perché il cane sta fermo, è un pupazzo praticamente, no? E vabbè, praticamente vabbè, levamo la sta cosa che non serve più a niente. E praticamente che succede? Succede che lui lancia questo cane addosso a sta signora. La signora si spaventa, ma lui, perché lui è bravo? Perché lui riesce ad abbaiare e a dire relax e shadow allo stesso tempo. Cioè, è una cosa incredibile. Scusate, pensavo di essere in Bluetooth. Invece sei. E invece sono in Bluetooth. No. Ma con un altro dispositivo che. Ma non so su che cosa. Roadcaster. Vabbè, niente. Vabbè. Niente, ma tutta sta storia. Comunque adesso c'è la musica triste, perché esatto. È alla fine tutta male questa cosa. Non ho capito perché non... Vabbè. Comunque, questa storia è incredibile, ragazzi, perché cioè, se voi, adesso vi linko il video, se non riesco a farvelo sentire. Ah, sì, forse ce la faccio, attenzione. Attenzione, incredibile. E queste... Scusate, però scusate, raga, ma a me sta cosa mi ha fatto. Mi fa rinno. Io guardo Walter e dice, cioè, sorride, però dice, ma che cazzo stai? Lo so che è stupido, però è quelle cose. Ci sta quella cosa che a voi fa ridere? No, ma no, perché che forse andrebbe vista in un momento, cioè, non avendolo ancora mai visto. Ah, non l'hai mai visto, no, tu? Ma io pensavo che tu l'avevi visto. Perché io sono due settimane che vado avanti con sto relax shadow. E quindi, ovviamente, cioè, lo condivido in tutti i gruppi e rido e continuo a ridere, no? Mi sarà passato davanti quando non potevo guardarlo e non c'ho più. Vabbè, niente, praticamente, cioè questa qua che praticamente lui lancia il cane addosso. Lui la prima volta gli fa tipo il cane che lo attacca e lui lo tiene, no? E la signora si spaventa e gli cascano tutte le buste. Ma la cosa è bella che lui e mentre che fa riesce a dire relaxato. Raga, a me mi fa troppo ridere questa cosa, cioè. Vabbè, un ventrilo. E comunque la cosa bella è che di solito il video che tu vedi su TikTok finisce con lui che lancia il cane sul collo dalla signora, la quale si spaventa, però il video finisce lì. Invece praticamente il video continua con lei che prende sto cane, lo tira per terra e lo prende a carci perché ancora non ha capito giustamente che il momento di concitazione. Sì, dai, comunque, cioè, mi sarei cagato in mano pure io, però vabbè, relaxato. Scusate, ragazzi, però non volevo, però è una cosa, è più forte di me. Pizzi, dobbiamo rilasciato. Portiamo via. Ma io guarda, Scozia, io, a me la cosa, che mi inquieta è il fatto che c'è, è un genere, cioè, cazzo, l'avrei voluto fare io una cosa del genere. Cioè, con Scozia. No, con Scozia non può venire. Con Gamera che c'ha il fisico di una volta. Gamera. Vabbè, Gamera l'ho lanciato addosso a Michela. Ah no, con Ceppa quando non è una volta. Oh, mamma mia. Michela stava a letto, stava lì tranquilla e a un certo punto e lei è atterrata già con tutte le zanne. Beh, immagino, insomma, adesso è stato. Vabbè, dai, niente. Poi animali maltrattati soprattutto. Puccio, tu raccontaci questa storia. Raccontaci la tua storia triste. Vabbè, in pratica avevamo iniziato a parlarne un paio di settimane fa. In pratica è successo che cuora, più passano le settimane, meno diventa un posto divertente dove stare. Perché? Molte delle cazzate che ci siamo raccontati fino ad adesso su questo social network nascevano dal fatto che la gente postava domande a cazzo più assoluto, perché c'era una cosa chiamata programma partner. Quindi quante più domande, diciamo così, controverse postavi, più facevi traffico, più Quora ti pagava una certa cifra. Stiamo a parlare di milioni, stiamo a parlare di qualche decina di euro al mese. C'è gente che è arrivata a 100-200 postando centinaia di cazzate come quelle che ci siamo raccontate finora. Che cosa è successo? Che a fine marzo il programma partner chiude, quindi nessuno beccherà più una lira. Qualcuno dice che probabilmente chiuderà proprio Quora, perché a quanto pare sono... Vabbè, comunque Quora è una zozzeria, ragazzi. Cioè, è veramente una zozzeria. È diventata la versione per adulti di Awansworth. Di Joe. Che è successo? Che quindi, andando via la parte, diciamo così, decelebrata, che cosa è successo? Che Quora è stata invasa dagli anziani che tipo non c'hanno più una casa su Facebook. E, diciamo, neanche ti trovi persone che ti odi con esperienze di vita con cui puoi parlare, discutere. Trovi proprio quelli che tipo stanno ubriachi al bar a dire: è colpa dei ragazzi che non vogliono lavorare, è colpa degli immigrati, delle femmine, ste cose così, proprio roba di un ritrivo mostruoso. E in più Walter conosce sicuramente l'espressione The Cry Scanner. Sì. Che è su Twitter è l'analisi che viene fatta delle storie di vita vissuta per evidenziare quanto siano probabilmente frutto di fantasia. E quindi si è riempita di queste puttanate. Io, oltre che a rispondere a domande tecniche tipo informatica, fumetti, videogiochi, non sto facendo granché. In compenso ho scoperto che su TikTok c'è un sacco di roba di cui dovremmo parlare e forse trasloco lì. Il problema di TikTok è che è solo, cioè devi fare i video. Se fosse un social dove puoi scrivere, ma no, ma in realtà, allora, me lo sono studiato un attimo sti giorni, perché stavo seguendo un argomento che in realtà era tecnico. In realtà loro, invece che scriversi le risposte, parlarsi, si fanno i video di risposta, fanno gli stitch. Quindi, tutto sommato, le dinamiche di conversazione tra domanda e risposta sono uguali. La differenza è che non lo stai facendo per iscritto, lo stai facendo a voce o coi video. Sì, però è troppo, cioè il livello di engagement è troppo alto sia per farlo che per seguirlo. Ma dipende, perché alla fine se segui quelli che fanno i balletti a cazzo, sì, poi ti rompi pure un po' i coglioni. Però se riesci a costruirti una bolla tipo quella che mi sono costruita io su determinati argomenti più o meno seri, più o meno divertenti, e trovi le persone giuste, alla fine ti devo dire, cioè, c'è anche roba interessante. Mo, non per annoiare nessuno, però c'è un tizio americano che parla dei libri di Stephen King e ti spiega le correlazioni tra i libri, i riferimenti ai classici che King mette dentro, sai qual è il fatto, che è una roba interessantissima, cioè io starei i giorni a sentire questo che parla. Ma il punto non è questo, sta su social dove la gente fa i balletti. Ma no, ma non è nemmeno questo, è che, come posso dire, tu c'hai questo vantaggio strategico che non dormi. Sì, più o meno. Quindi tendenzialmente hai una fetta di, diciamo, delle 24 ore che puoi spendere su questa cosa, magari maggiore di quelle che io, che tendenzialmente c'ho sto vizio che almeno 6-7 ore a notte ce le dormo, e quindi già sottraile dal totale. Ma a disposizione. Lui fa come i delfini, dorme con un emisfero cerebrale alla volta. Esatto. Quindi, e con l'altro guardo TikTok. Esatto. E io il tempo che riuscirei a dedicargli in maniera lineare, o anche comunque in maniera con la giusta concentrazione, non so quanto potrebbe essere. Leggere c'ha il vantaggio che un tweet de pochi caratteri, te lo butti là, ti leggi due risposte, hai investito 2 minuti del tuo tempo. Con i video e con le reaction, quindi con tutti gli scambi, si suppone di dover avere un indice di concentrazione maggiore. Poi, senza contare che comunque devi ascoltare l'audio, Direi pazienza, cioè non lo so, diventa c'hanno i sottotitoli, quindi no, ti ripeto, considerando che per me, per esempio, io uso i social in maniera molto sporadica e estemporanea, cioè li guardo molte volte al giorno, ma per una, diciamo, per intervalli brevissimi, tipo 2 minuti tra una cosa e un'altra. Non so quanto ci riuscirei con un livello di interazione e di interattività di tipico di TikTok. Però vabbè, ripeto, non è che... No, però, cioè, in realtà, ti ripeto, dipende da come ti stai costruendo la roba che segui. Perché alla fine, come ti devo dire, è come come adesso è diventato Twitter, no? Che c'hai la colonna dei per te e la colonna delle persone seguite. Mamma, quindi puoi decidere se vedere roba che più o meno può essere di tuo interesse secondo Elon Musk o le persone che segui, e quindi la cosa che ti sei costruito tu. Funziona esattamente nella stessa maniera TikTok. Se te la giochi bene, trovi roba interessante, ci sono dei content creator che, insomma, fanno roba valida. Molti addirittura dicono che, siccome fanno dei numeri che sono molto più alti anche rispetto a YouTube, hanno fatto diventare TikTok la piattaforma di riferimento. Poi vabbè, insomma, c'hanno mille rivoli, tipo fanno i video brevi su TikTok e tipo fanno le live su Twitch, queste cose così. Però ti devo dire, ci ho trovato roba divertente, ci ho trovato roba interessante, ci ho trovato cretini che ballano, donne seminude, insomma, roba interessante indubbiamente. Sicuramente più di quello che sta diventando Warren in questo momento. Beh, ma in realtà sì. Poi secondo me si stanno anche differenziando per età media. Diciamo che Quora, però, le premesse della, cioè, che sarebbe poi diventato, ma al di là del fatto che è segmentato in vari argomenti, quello che vi pare, però insomma, le premesse, le potenzialità di diventare una zozzeria c'erano tutte, dai. Cioè, io comunque, a me, che io non lo frequento, e quindi lui non ha potuto, come posso dire, algoritmizzarmi, mi manda quelle che sono le discussioni più popolari. e la maggior parte sono tutte puttanate, ragazzi, cioè, sono puttanate importanti. Mo a noi ci faceva gioco, sì, perché magari se non le prendevamo ci ridevamo sopra, cioè nel senso, comunque è tipo mia figlia ha nascosto 4 kg di Nutella dentro all'armadio, cosa devo fare? Cioè, sì, ma se tu puoi a vedere il profilo di chi ha postato quella domanda, c'ha 14.000 domande in 2 mesi che sono più o meno tutte uguali. Ma c'è sta tanta gente, Buccio, questo non è che ci lo fa scoprire cuore, sì. C'è tanta gente che sta dentro casa, non c'ha amici, non c'ha conoscenti, a malapena si ammette due parole in croce, cioè. Sì, ma lì la mazzata su quel social l'hanno data, il fatto che ti hanno detto ti diamo dei soldi se fai delle domande che vengono visualizzate, pochi o tanti che fossero, e in più il fatto che a un certo punto Quora, che aveva la bandiera di ingresso che dovevi mettere il tuo nome vero, altrimenti non ti facevano postare, sta cosa l'hanno levata, è perché hanno cercato di tirarsi i profughi di Yawanswere, che sono i ragazzini. Quindi è successo quello che poi è successo, più il fatto che Quora Italia, non so negli altri paesi come stia andando, banalmente non ha una moderazione, quindi puoi trovare gente che dice sì, spariamo ai neri e nessuno interviene, ma quelli sbagliati purtroppo, sì. Esatto, quindi è diventata una roba poco vivibile e che onestamente a me ha smesso di divertire da qualche settimana e penso che peggiorerà nel tempo. Beh, adesso guarda, Francesco non c'è, ma quando tornerà Francesco per la settimana internazionale del cervello, cioè nel senso, loro hanno costruito praticamente tramite un'applicazione che va su Oculus una sorta di ambiente virtuale che funzionerà insomma da chat per delle applicazioni che faranno loro, no? Quindi se lo so, fatta praticamente costruita uno che ha trovato su, come si chiama quel sito, quello dove trovi quelli che ti fanno le cose a pagamento, Fiverr, bravo. Se tu dici quelli che ti fanno le robe a pagamento, può essere tu. No, tu vai lì. Cioè, poi il problema di Fiverr, è che puoi beccare la persona seria, come poi, cioè, te, poi trova pure quello, no, che ti fa. Ma su Fiverr trovi tempo, se cerchi robe informatica, trovi gli indiani seri. Quindi. Sì, sì, no, ma comunque, vabbè, alla fine. Però lui, cioè, mi ha detto: io la prima volta che stavo a provare l'Oculus, andavo nelle chat, insomma, roba del genere, ma ci ha raccontato delle cose. Tipo dei ragazzini di 13 anni americani, razzisti, omofobi, che ti sparo, ti sparo la vita. Esatto, capito? Cioè, nel senso, brutto negro messicano di merda, capito? Cioè, tu sei messicano, tu parli strano, perché ovviamente tu non parli con l'accento americano, sei messicano, chiaramente, no? Cioè, quindi bene o male, no, vai a vedere, purtroppo questa è la situazione in generale. Lo è, secondo me, molto meno drammatica nella vita quotidiana, perché comunque i social, ragazzi, da sempre comunque hanno dato sfogo praticamente a tutte quelle persone che nelle condizioni normali alcune cose, diciamo, non le farebbero. Poi chiaramente, purtroppo, amplificando un po' questa situazione, la gente si abitua a farlo nei social e pensa che sia legittimo farlo anche nella vita normale. Tipo la gente che fa in mezzo alla gente. Esatto, vabbè, quello però, vabbè, quello non c'aveva bisogno dei social, quello era stupido di suo e vabbè. Quello, se andavi allo stadio negli anni 80 era già. Sì, fino agli anni 2000 pure. Esatto, non è che erano gli anni 2020. Cioè, ancora allo stadio si combatte contro il che non lo fa quasi più nessuno, ma ogni tanto qualcuno lo fa, insomma, cioè, nel senso, purtroppo c'è sta cosa qua, insomma, no? Però ecco, diciamo che non è Quora o TikTok che ci fa scoprire il peggio del peggio, che si riflette poi ovviamente anche nei social. Questo però, diciamo che a me non mi ha mai ispirato nessun tipo di fiducia come tipo social network, cioè onestamente, o come sistema di interconnessione. Era anche carina come idea, ma se tu fai un posto che è predisposto a fare domande, aspettare che le persone danno risposte, io la sapevo che la gente avrebbe fatto domande di ogni genere e che avrebbe passato lì tutto il resto della loro giornata a scrivere cose semplicemente per avere quei 3 minuti di attenzione rispetto a una persona. Ah, ma hanno risposto, allora sono importante, ho scritto una cosa importante, perché poi dai, diciamoci la verità, un po' è questo, insomma. Ma io tornerei su Twitter. Così, esatto. Mentre ti prende un no, io però, ragazzi, non ti trattenere che ti viene l'ictus. È vero. Allora, io devo fare, diciamo, una divagazione nella cronaca, però, perché ovviamente poi questa è una notizia che ho preso attraverso i social, però è una notizia di cronaca che mi fa troppo divertire, poi domani ci torno sicuramente sulle reazioni. Voi avete presente chi è chi sono i Wagner, no? L'esercito privato che utilizza quelli che suonano? No. I Wagner è Richard Wagner, attore. Sì, morto. No, è un esercito privato al soldo dei russi che sta combattendo in Ucraina e che praticamente fino a qualche giorno fa hanno finito le risorse, hanno ricevuto ordine di combattere con i badili, con le pale, perché non hanno più niente. Vabbè, segno che insomma la Russia stava per essere sconfitta. Fatto sta che a quanto pare c'è una grossa maretta tra Putin e la Wagner, perché la Wagner, che costa un botto dei soldi al Cremlino, diciamo, non proprio tutta la Wagner, in particolare il capoccia sì, però aspetta, tanto in realtà la notizia è collaterale, insomma non stanno ottenendo i risultati che avrebbero dovuto. A questo punto però, in tutto questo contesto, cosa accade che in Italia gente come il ministro della difesa Crosetto e il ministro degli esteri Tajani se ne escono con questa botta di genio, questa tesi secondo cui dietro ai flussi migratori clandestini ci sia proprio la Wagner, che organizza questi flussi di migranti dall'Africa per destabilizzare le nazioni d'arrivo, tra cui l'Italia. Ora, al di là che normalmente non ci starebbero, che siamo così parte attiva in questa guerra. Ora al di là di ogni altra ridicola, cioè questa è una tesi che non sta in piedi di suo, ma è stata divertentissima la risposta che ha dato oggi Prigozhin, che è il capoccia del battaglione Wagner, che ha risposto a Crosetto letteralmente, gli ha detto: stronzo, noi non ci occupiamo di migranti, pensa ai problemi che non riesce a risolvere. Ricordiamo che quest'uomo ha detto che si... Scusami, ricordiamo che quest'uomo ha detto che si vuole presentare in politica in Italia. No, in Russia, e questa cosa a Putin non va tanto a genere. È strano, Strano. Che ci sono balconi d'intorno. Balconi con l'L di che l'hanno fatti saltare tutti in aria apposta, ecco, oppure perché li hanno piombati, ecco perché bombardano i palazzi, per far saltare i balconi. Ma il problema sono anche le trombe delle scale pure, Infatti loro tirano giù tutto, cioè poi così. Sai cosa succede? Che rimane il Polonio, chiami l'ascensore, si apre la porta, non c'è la cabina, sono cose che sì. Rimane il Polonio, però quello lo so, ma lì il tè corretto Polonio. Infatti. Ti mando direttamente il Polonio corretto coltelli, tranquillamente. Vabbè, è tutto molto bello. Beh, io andrei un po' da Gualdi anche un pochino. Allora, io ho pochissime notizie. Vabbè, Gualdi, comunque sono due settimane che non c'è poche notizie. Cioè, c'è questa notizia che abbiamo letto, che hanno fatto un poll, un come si chiama? Un sondaggio. In cui sembrerebbe che... O un po' l'arrost, non so. Non lo so, è inglese, quindi è sondaggio. E che dice che praticamente i fan di Star Trek sono felici che Discovery sia stato cancellato. Strano che, ma vero. Mi sembra strano. A me dispiace tantissimo che fare... Però aspetta, prima di... Cioè, quindi fanno questa stagione entrante? Sì, la quinta. La quinta la fanno, ma verrà mandata l'anno prossimo. Vabbè, è quello, vabbè. Quello è divisa in due parti, se ho letto bene. No, anche perché oramai con tre serie attive e potenzialmente quattro, si sono pure mezzi accavallati, tra l'altro. Quindi tagliamo i rami secchi, secondo me. I rami secchi. Tra l'altro, io vorrei far notare che su Picard i Klingon sono Klingon. Vorrei far notare questa cosa. Ancora i Klingon. Così, secondo me. Abbiamo visto uno solo. Secondo me, io ho questa sensazione che Discovery adesso la rimandano perché dicono: cioè, cancelliamo, facciamo la quinta, ma poi la cancelliamo. Però nel frattempo questa la rimandiamo, perché rimandando la gente dopo un po' si scorda, cioè, ma c'era quella serie lì, mi ricordo come si chiama, e quindi alla fine Vabbè, ma comunque si chiama Dannazio Memoria. Non la dovevi immaginare come un reboot di una linea temporale, quindi è chiaro che in Picard c'è Worf, e Worf è sempre stato Worf, non lo puoi cambiare, che senso c'ha? Questo dici te, secondo me quando hanno fatto anche Discovery, anche se un po' imbiancato, intendo dire brizzolato le sopracciglia, insomma c'è una certa, poverino, vabbè, c'è una certa, è pure la metà di quello che era una volta, però vabbè. No regà, ma posso dire una cosa cattiva? Sembra più Klingon la dottoressa Crusher di Worf. A me sembra più una vecchia, a me sembra più un cambiante la Odo, però Esatto, sì, molto, diciamo, molto... Che lei. Diciamo, sì, diciamo che deve fare molta attenzione alla sua carica attoriale, diciamo così, perché... Sì, perché ridere, un po' piangere, un po' fan cazzo, se sempre serio. Però devo dire che la doppiatrice è brava, perché gli fai così, capito? No, perché non è perché sia la detta, perché c'è questo effetto, ormai c'è questa moda dei doppiatori con la dentiera, perché giustamente per mantenere... Si chiama l'effetto Darth Vader. La doppiatrice originale, a differenza la doppiatrice giapponese, a differenza di quello buonanima di Riker, che è venuto a mancare 10 anni fa, che quindi non ha potuto. Perché poi, tra l'altro, raccontiamo questo costante fatto. L'altro giorno Sbano scrive: hanno cambiato la voce a Riker. E io ho detto, boh, ma c'è qualcosa di strano in questa affermazione. Perché in realtà la voce di Riker è identica, no? Nella prima e seconda stagione di Picard. Però, giustamente, poi io ci ho riflettuto. Ma poi che lui fa riferimento alla vecchia voce, che poi era quello pure che faceva a Dottor House, no? Se te lo ricordi. Tra l'altro lì, secondo me, la cosa è stata anche peggio, perché in Dottor House è morto in corsa il tizio, il doppiatore, no? Alla fine della quarta, sì. Esatto, quindi tu a un certo punto, da una stagione all'altra, questo c'ha un'altra voce, no? Nel senso che, tra l'altro, poi alla fine piano piano ti ci abitui pure. Però quando muore un doppiatore, quando una voce per te è comunque quel personaggio, in effetti capisco, no? Che lo shock. Dice, però... Cazzo, è morto una cifra di anni fa. Cioè, non se ne era accorto, Walter. No, non ricordavo. Vabbè, però sì, effettivamente c'ero rimasto un po'. T'ha sbiacinato, insomma. No, perché adesso, anche se tu mi dici. Però, se tu, scusa, l'altro anno, quando l'hai sentito. È passato abbastanza tempo ad essere dimenticato. Non ci hai fatto caso. No, no, se ci avrò fatto caso, ma non l'avrò. L'hai rimosso. Hanno cambiato la voce di Riker. Noi ci abbiamo fatto una puntata sulla voce di Riker, che non è cambiata, sicuramente. Sì, ma andiamo a vedere. Ah, forse se andiamo a vedere la vecchia puntata, ma può darsi. No, però la cosa invece da me, però, del doppiatore di Quadentino è inquietante. Allora, io devo dire. Si muove proprio in bocca. Giustamente. Se è invecchiata lei, cioè lei era già grandicella nell'88, ok? Quindi l'attrice che faceva la dottoressa Crusher. Che dei faddoni. Tra l'altro, poi la dottoressa Crusher, che è morto quando è morto il marito, perché si chiama ancora Crusher? Qual è il vero cognome della dottoressa Crusher? Non lo sapremo mai. No, mi sa che a un certo punto viene detto in Next Generation, lo dice. Vabbè, comunque, se dico. Questa era grande nel 1988, oggi che sono il 2020, quindi quanti anni sono passati? 30 anni? Sì, 30 anni. Cioè, questa ci avrà 80 anni. Mi pare una settantina abbondante. 75, c'era 90. Cheryl Howard è il nome da Nubi. Anche la doppia. Com'è? Beverly Cheryl Howard. Madonna, ma quante ne sa quest'uomo? Quante ne sa questo chat GPT? Qui lo dice. Mi ricordavo che c'era una puntata in cui lo dice. E comunque, cioè, nel senso, pure la doppiatrice, che era comunque la voce di una donna adulta, cioè a 30 anni di distanza, perché la doppiatrice è chiaramente la stessa. Però non so se è per emulare il fatto che questa c'ha la bocca così, o perché proprio pure lei, pure la doppiatrice, c'ha 95 anni in carrozza, insomma. Però devo dire che tutto sommato non parleremo di Picard in OGM, perché comunque aspettiamo e finisce e faremo the best of special on. Guarda, praticamente Serena Verdirosi, che era doppiatrice, c'ha voto più pieno, la stessa età dell'attrice. Dai, si sente, dai, 47, che Smith Fadden. Quindi così. Tutto sommato è anche credibile il doppiaggio, cioè nel senso ci sta che lei parli in quella maniera lì. Del 49, sì. Alessandro Rossi. No, ma secondo me non è voluto, semplicemente che è così. Sì. No, però dico, comunque ci sta, cioè nel senso è una cosa comunque credibile, no, da quel punto di vista. Sarebbe stato estraniante l'effetto contrario, no? A me fa specie, però, che voglio dire, è vero che anche uno con i soldi di Berlusconi, a volte anche con i soldi di Costanzo, non è riuscito a farsi una dentiera in bocca decente. Però cavolo, nel futuro con la tecnologia si dico, no, ma sì. Secondo me è un po' è fatto apposta. Ma se nel futuro non si fanno ricrescere neanche i capelli, che frega. Secondo me un po' è fatto apposta, comunque, dai. Cioè, ma sai che la risposta più bella a quella storia dei capelli me l'ha data mia moglie l'altro giorno. Che ho fatto la stessa osservazione, ho detto, c'è questa scena in cui si parla delle calvizie in Picard, e ho detto, sarà nel futuro, correggono qualsiasi malattia, però perdono ancora i capelli. Mia moglie ha detto, vabbè, perché non gli interessa più niente, quindi una roba tipo di curare la calvizie. Sì, ma io ci sta come spiegazione, cioè che comunque sì, a loro alla fine sta cosa non gliene frega un cazzo e vanno avanti. Ricordiamo tutti che Kirk non può mettere il collirio canonicamente. Vabbè, quella porta gli occhiali. Vabbè, però sì, perché lui è intollerante al Retinax 6, come sì, al lattosio, esatto. Dai, vabbè, cioè, è una sobrietà. Vabbè, ma lì è diverso. Ricordate che c'era un pet dietro a lui mentre che lo diceva, quindi insomma, io sono passati un po' di anni. Però io ricordo, il dottore mi ha dato una pillola e il fegato mi è ricresciuto. Cioè, c'è sempre questa sproporzione, no, nella scena. Che ragazza, cioè, no. No, è che purtroppo la serie classica di Star Trek viveva ancora di quell'esoticità, no, che poi dopo in The Next Generation hanno provato a dargli un po' più di sostanza, sempre nei limiti, no, del, anche perché vi ricordate c'era una puntata intera di The Next Generation e parlavano perché col flusso del Triglos 5 amatore fai col deflettore a sinistra blanda, cioè, e tutti dicevano ma che cazzo sono di questi, però loro ci credevano. Opa! Loro ci credevano, questo era importante perché crederci rende la cosa credibile tutto sommato, no Gualdi? Assolutamente, bisogna rinunciare alle cose in maniera seria. Giustamente stiamo un po' trascurando la chat, permettetemi di dire. Luca S dice invece Jerry Ryan è ancora più gnocca di quando faceva Voyager. Sì, perché con l'età si è resa ancora più interessante. Ragazza, è una bella donna, una gran bella donna. Inchiniamoci, ditelo a Chakotay che non ha voluto partecipare. Ma io penso che Chakotay non sia combinato bene, eh. Aspetta che mo vado a cercare. Beh, penso che sì, forse l'hanno. Voi dovete considerare, ci sono due personaggi. Uno è Sisko, ragazzi, l'ho visto proprio ridotto malissimo. No, non sta bene. L'ho visto nel documentario che avevano fatto Five Captain. È invecchiato proprio male. Sì, no, ma mezzo alcolizzato de brutto. Cioè, secondo me. Comunque, ma da quello che so, pure all'epoca di che quando gli dava girava giudici. No, ma comunque secondo me Star Trek non porta bene a tutti quanti. Cioè, nel senso. Ma secondo me molti attori finiscono per non lavorare più dopo, oltre Star Trek, perché molti sono stati caratterizzati, cioè alla fine lo stesso tranne Patrick, uno, beh, però cioè finisce a fare Creators, cioè, no, DJ Hooker, il capitano Picard, lui grazie a, beh, ma in realtà scusami, allora oggettivamente lui è un bravissimo attore shakespeariano e tutto quello che vuoi, ma Patrick Stewart gli togli Picard, gli togli Charles Xavier. Ma che ha fatto? No, ma che cazzo dice? Ha fatto Enrico Quinto, ha fatto una marea di roba. Ma che dici? Non ha mai avuto, anche in film importanti, ha avuto sempre ruoli secondari. Vabbè, me lo ricordo, in Ipotesi di Complotto, il però cattivo contro. Sono tanti bravi attori che hanno fatto una grande carriera, che magari non se li ricordi male, perché. Ho capito, però non è. Sì, sono personaggi, certo, che poi ti classificano. Certo. E ti tolgono poi, diciamo, per questo che lui non ne ha più voluto sapere per 30 anni, giustamente. E invece, cioè, perché quello che, come è rimasto incastrato Shatner in quella cosa, gli altri se ne volevano tutti vedere, insomma, bene, perché dicevo, cazzo, io comunque sono attore, no? No, Patrick Stewart ha fatto una bella carriera rispetto a tutti gli altri, soltanto che chiaramente non è uno di quegli attori che dici, oh, vedi quello che ha fatto, cioè, non è Tom Cruise. Però insomma, io vorrei spiegare il punto di vista, perché per esempio Peppe dice dai, su, ha fatto Dune. Sì, ragazzi, ma sono tutti attori che riconosciamo a posteriori. Sì, ma li riconosciamo a posteriori grazie al ruolo che ha avuto in Star Trek, altrimenti è un attore cretino. No. Excalibur, imbecille. Comunque, vabbè. No, sì. Cioè, ma voglio dire, non è un attore di prima fascia. Lo stesso Leonard Nimoy, la sua biografia, la prima, la chiamò Io non sono Spock. Perché vabbè, era stato talmente tanto assimilato in quel ruolo. Nimoy aveva il problema di avere, diciamo, una componente somatica talmente peculiare che alla fine faceva sempre questi ruoli un po' particolari. Faceva un po' l'alieno, cioè, se no faceva il cattivo nel Tenente Colombo. Passando dall'altro lato della parrocchia, no? Lo stesso Mark Hamill, dopo Guerre Stellari, si è dato al doppiaggio. Vabbè, lui ha avuto un incidente, mi pare sia anche mezzo sfragnato la faccia. Il terzo film, sì, tra L'impero colpisce ancora. Tra il primo e il secondo film, scusa. Ma ricordiamoci che lui è il colonnello Blair. Sì, ma il problema di fondo è che lui sapeva che ormai lo avevano collegato a quel personaggio e che non ne sarebbe uscito, quindi si è messo dietro le quinte e ha fatto il doppiatore e gli è andata bene, perché poi ha fatto Joker, ha fatto Trickster, ragazzi, lui è Trickster. Beh, anche Scassacazzi nel film di Kevin Smith, quindi insomma, su tutta una serie di altri Scassacazzer. Sì, esatto. E lui ha deciso di dare questo taglio diverso alla sua carriera e fare altro, ma perché sennò sarebbe rimasto intrappolato là dentro. E ha fatto due film di fantascienza in Giappone, uno era Gyver, e poi ha capito che non era cosa. E l'altro era Mac. Apple. No, Mac Gyver. Va bene, io vi volevo salutare. No, il freddo, però, aspetta, no, ci sono delle notizie su Star Trek che vorrei leggere. TG.com ci dice: William Shatner, non mi resta molto, mi racconto la mia vita in un docufilm. E la Repubblica insiste con William Shatner, la confessione del leggendario capitano Kirk di Star Trek, non ho molto da vivere. Cioè, questi titoli ti fanno capire che lui domani muore, ma in realtà lui si è fatto i conti, adesso c'ha 91 anni, detto vabbè, gli ne restano altri 20-30 rispetto a quello che aveva. Allora lui è, voi lo sapete, lo seguo perché per me è come non sia, insomma, lo seguo su Twitter e devo dire c'è stato un periodo in cui c'è stato un pericoloso silenzio e lui poi è tornato con un messaggio abbastanza criptico che secondo me comunque denota il fatto che lui non è stato bene. E ci sta anche perché comunque c'è veramente un'età insomma abbondante, e dicendo vi sono mancato, anch'io sono mancato a me stesso, e poi facendo ironia sul fatto che ma ancora non sono andato via e via dicendo, e insomma diciamo che secondo e me poi c'è fatto Creator the Past. No, l'aveva già fatto. Anche Creator c'è di un paio d'anni prima della pandemia. Sì, anche 3-4 anni fa, tipo come produzione. Comunque, ragazzi, stanno a cominciare a arrivare i colpi. Insomma. Io continuo a dire che noi, esatto, gli accidenti cominciano a arrivare. Noi dobbiamo giocarci le quote SNAI, perché ovviamente la domanda è: prima Shatner o prima Stewart? No, prima Shatner. E non è così banale. Allora, fermo restando che quando arrivi a una certa età c'è l'imponderabile, cioè esatto, non puoi dire. Può succedere che uno va a dormire la sera e il giorno non si sveglia più e basta. Cioè, detto questo, sicuramente se dovessi scommetterei su Patrick Stewart, perché comunque fisicamente è molto più in forma, cioè sta bene, sapete che stai un uomo che sta bene, che si tiene insomma in qualche maniera. Patrick Stewart in questo momento sta grattugiando le palle con tutte e due le palle. Aspettate, ultima notizia. In memoria, l'ultima puntata di Picard in memoria di Patrick Stewart. Cioè nell'ultima puntata di Picard c'è Kirk. Sbaglio, perché lui quell'altro era morto, non ha fatto un tempo. Ci sono Picard, sono un po' diverso perché il ponte logrammi. Che poi sai, magari colpo di scena tra tutti questi capitani, poi c'è plot twist e ci saluta Soneca Martin Green. Certo, lo sai la cosa che qui non c'entra niente con OGM, siamo andati proprio alla deriva, come al solito. La cosa che mi ha fatto un po' specie, cioè nel senso che mi ha fatto dispiacere, è che in effetti un personaggio come Kirk a volte un cameo, una chiccata, una cosa d'estraforo, un passaggio dietro le quinte che lo vedi e non lo vedi, ma è lui, non è lui. Secondo me se lo sarebbe anche meritato. Il problema ma è questo che dove? In generale, nelle serie Trek. E nelle serie Trek se lo sarebbe potuto anche meritare. Il problema, sai qual è? Che secondo me c'è stata questa cosa e se la so giocata male con Generazioni. Perché Generazioni, quando io ho visto la prima volta il film e c'è il momento in cui si vede lui de spalle che taglia la legna, cioè è figo, evocativo, cioè nel senso che un fan di vecchia data ti viene il frizzicorio che c'è cazzo James T. Kirk nel film, no? Ma quella sceneggiatura secondo me era stata scritta scritta come per dire vabbè, io mi voglio separare dal personaggio, era un saluto al personaggio per non riprenderlo. Ci stava, poi evidentemente si è reso conto che tutto sommato ok, ma adesso io che faccio? Documentario di Star Trek. Poi c'era anche Coso, il Drugo, che faceva il cattivo in quel film, quindi non ce lo dimentichiamo. Passò completamente in sordina. Aspetta, il dottor Soren là, Saro. Ah, no, scusa, aspetta, ok, Suren. Perché sì, no, è Malcolm McDowell, che per me io ero rimasto al Grande Lebowski. Quello ero, insomma, il Drugo, ok. Alex dei Drughi in realtà, Alex per definirlo, Alex. Ok, sì, ma in realtà, ma vabbè, poi guarda, tutto sommato, se poi pensi a Insurrection e a Nemesis, Generazioni finisce anche per sempre il film nella mediocrità della Next Generation al cinema. a parte Primo Contatto, secondo me, figo, no, gli altri sì, nel senso sì, Primo Contatto. Secondo me pure alla fine forse pure per generazione non era male, perché lo dico, è che incastra male le cose, perché anche il modo in cui muore Kirk è un po', cioè, nel senso, ma in realtà non è che muore, resta nel Nexus. Chi ti ha detto che muore? Lui muore, lui muore. No, chi è nel Nexus? No, sempre nel Nexus. Nel Nexus. Vabbè, sì, teoricamente. Vabbè, la Gainan è sempre nel Nexus. È sempre nel Nexus, esatto. Perché so, fuori al tempo. Questa cosa non mi ha mai convinto del tutto. Però comunque, vabbè, al di là di tutto, sì, Nemesis era quello più brutto, dai. Cioè, lo so, rivisto anche recentemente, c'è solo il fatto della morte di Data che è significativo. No, che quello era Brent Spinner che voleva lasciare il personaggio, quindi gli hanno dovuto infilare sta roba. Sì, vabbè, bastava, tanto era l'ultimo film semplicemente comunque. Semplicemente infatti andare avanti come se niente fosse. Esatto, e poi dopo è ritornato sempre, perché adesso non c'è una serie di Star Trek dove non c'è lui che in qualche maniera non fa o Sung. Ma o... proprio perché vedi, sono tutti attori che non sono riusciti a uscire da quel ruolo. Non sono riusciti ad avere una carriera al di fuori di quel personaggio. Sì, magari in America non ha pure lavorato, ma sì, noi sì, non lo sappiamo. Sì, per carità, però hanno lavorato sempre nell'ottica a di minori, a livelli minori. Esatto. Beh, come Mark Hamill, ad esempio. Mark Hamill, so che in America Brent Spinner ha fatto altre comparsate, ma niente. Che ha fatto in Independence? Era uno scienziato, quello con gli occhialetti, oddio, non mi con i capelli lunghi, niente, quello mezzo hippie, quello che un po' ci capiva, insomma. Compare pure nel secondo Star Trek, nel secondo Independence Day, sempre una scena e mezza. Rifiutato di vederlo il secondo. Io me volevo rifiutare di vedere pure il primo, figurati, cioè. Comunque vabbè, dai, che stiamo completamente sbinariando. Ma sì, in realtà va anche bene. Sì, perché... no, ma tu c'hai qualche recensione? Perché sennò io volevo sapere dove andare questo fine settimana. Esatto. Aspetta, che adesso ma sai che se ti do un compito, Gualdi, dalla prossima puntata vai a leggere le peggiori recensioni dei posti dove siamo stati, così possiamo almeno verificare, insomma, se... che dici? Chi se ti ricorda? Però vabbè, ci posso. Mi ricordo provare. Io. Va bene, okay. Te faccio l'elenco, te li scrivo. Perfetto, va bene, se poi li commentiamo noi. Esatto, possiamo... così almeno ci possiamo dire se si è esagerato. Potremmo andare al il delfino di Ostia. Il delfino di Ostia. Già allora, che è tutti... Ostia. Allora, tutte queste. Sì, che ci vai a fare Ostia? Comunque, no, in ogni caso, diciamo che questo è comunque un ristorante che sta sui 3.9, quindi non è che fa proprio schifo. Non è manco buono. No, insomma. Infatti, cioè, però è quasi 4, insomma. Purtroppo. Aspetta che vado sulla... Niente. Allora, purtroppo, dopo tanti Marco anni di frequentazione positiva, sono rimasta delusa. Probabilmente è cambiata la gestione, non so. Non viene servito più pesce di qualità, peraltro a prezzi un po' troppo alti. Mi è stata servita una frittura di gamberi vecchi. I famosi gamberi vecchi. Certo, perché quando sono fritti tu li riconosci. Geronto Gambers. Esatto. Che non aveva sapore, fritta praticamente nell'olio motore. Una cosa immangiabile. Sono stata male tutta la notte con lo stomaco. Può succedere, però. Una piccola insalata di polpo non fresco. Frittura di gamberi non fresca e fritte nell'olio fritto e rifritto. Vabbè, già l'ha detto. E un sorbetto con l'olio fritto. Con un'acqua per una persona 40 euro. Mi sembra un po' troppo eccessivo. Hanno Beh, pesce, sì. I prezzi, se vanno avanti di questo passo, non avranno ancora per molto. Che cazzo ha scritto? Lo so. Cioè, questa hanno c'è andata. Hanno abbassato la qualità ed aumentato i prezzi. Se vanno avanti, c'è andata per anni a sto ristorante. È stata contenta una volta sola. Bastata una volta sola, che non è andata bene. Io sto vedendo questa cosa che tutti quanti scrivono. Sono 40 anni che vengo qui. Mi hanno dato la bruschetta con un solo pezzo di pomodoro. Una stella merda. Sì, esatto, brutti e merda. È vero. Ma comunque, vedi, è quello che dicevamo prima. Cioè, la gente non ha più la capacità. Di gestire il rapporto con le cose, proprio in generale. Questa è un'altra recensione da leggere tutta ad un fiato. Sempre lì? Sempre lì. Sempre a Ostia? No, ma non è tanto quello che dici, ma bisogna leggerla tutta ad un fiato. Vai. Cucina molto media, buoni i primi pendoli, antipasti, soprattutto l'insalata senza apostrofo di mare e il salmone palesemente spuntati. Conto troppo alto per la qualità degli elementi serviti. Che cos'è il salmone spuntato? Non lo so. Se era un pesce spada spuntato potevo anche capire. Forse senza testa. Forse hanno sputato magari. Non lo so. Penso se sono sputato è normale. Esatto, quello succede in tutti i ristoranti. Mentre un'altra scrive: locazione discreta, rapporto qualità-prezzo così e così, qualità discreta, carta dei vini insignificante. Bisogna leggere la voce robotica perché non ci sono punteggiature. Esatto. Ma lo stesso lo facciamo leggere a ChatGPT? No, non legge ChatGPT, c'è la lettura? No, però ci stanno altre applicazioni. Perfetto. questo dice che la locazione è discreta. Questo perché voleva fare la location, non la fa americana, ha tradotto in italiano. Non location. Sapeva come si diceva, si scriveva location, perché veniva location con la Sean. Esatto, sempre ristorante, c'è di meglio, 2 stelle. Beh, oh. Però c'è la risposta. C'è sempre qualcosa di meglio come di peggio. Grazie per la tua recensione. Infatti, cioè, ma che cazzo di recensione? Esatto. Cioè, lascia 2 stelle e vaffanculo. Cioè, giustamente, ma che cazzo è? Oppure non di niente, ma prima. Ristorante The Legend, sempre a Ostia. Arrivati alle 22:30, era chiuso. 1 stella. Mi sembra. Questi sono i pezzi di merda, eh. Però è vero che qualche volta mi ce l'ho deluso ancora pure a me. Altra recensione, sempre per The Legend. Ha, dove sta? È chiuso. Una stella. Allora si vede che ha proprio chiuso. Una stella. No, era chiuso per. Ma perché? Dove sta? Che cazzo? Ma che cazzo significa? Cioè, vabbè. Queste sono le recensioni di Ostia, ragazzi. Bello, bello. Quindi, se dovete andare al The Legend a Ostia, o quell'altro come si chiamava? Il Delfino. Il Delfino. Insomma, fateci. Al The Legend troverete chiuso. E al Delfino dovete lasciare. Non so, dovete scrivere le recensioni senza punteggiatura. Esatto, ma quello però l'abbiamo visto abbastanza ricorrente sta cosa. Perché sì, evidentemente è una modalità che noi non conosciamo, ma è così, se fa così le recensioni. Puccio, tu c'hai altro? No, direi di no. No, Walter? Io c'ho da salutarvi. Allora sapete che vedete. Però c'ho l'ultima notizia, scusatemi, che è importante. Ammazza, questa. Oh. Da leggo.it. Ok, quella che non clicchi, giusto? Quello non vanno a cliccare. Ed è una notizia importante che ci cambierà la vita. I soldi fanno la felicità, lo dice la scienza. Sì, sì, lo leggevo. Lo studio con redditi più elevati, il benessere è maggiore. Grazie al cazzo. Grazie al cazzo. Grazie, esatto, al cazzo. Sì. Cioè, che poi il benessere è maggiore non significa essere felici. Cioè, no. Sono proprio. Vabbè, ma d'altronde non possiamo pretendere, insomma, più di tanto. Carissimi ragazzi, speriamo di avervi fatto compagnia anche in questo lunedì sera, tornati dopo un po' di pausa, che pausa ogni tanto fanno bene perché aiutano a corroborare il corpo, il fisico e la mente. Non questa volta. Ma noi non, infatti, le faremo un'altra. Noi non ci esatto, non ci corrobora assolutamente niente. Ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao, vi saluto. Marco Gualdi, fai pubblicità al tuo. Ricordate, ricordate quella bellissima trasmissione che viene fatta il che cazzo venerdì esce ogni venerdì. Venerdì alle ore? Alle 6 del mattino esce e poi viene trasmesso. Cazzo, c'è stare 6 di mattino? Cioè, alle 6 del mattino esce. Mattino. Cioè, così quando va? Uno, nel momento in cui uno accende il cellulare, cioè, se lo trova già scaricato. Che cosa legge? Ho visto cose. Ho visto cose. Su Spotify, su dappertutto, Google Podcast, sta dappertutto. Ci sono due belloschi figuri che vedono cose. Esatto, poi lo riconoscete perché c'è un uomo e una donna spalla a spalla che sparano. I raggi gamma. I gamma, esatto. No, con gli occhiali. Con gli occhiali bisogna fare attenzione perché c'è, che ne so, c'è le occhiaie da sole. Podcast di me? Recensioni. No, io penso di che? Di che? Vedete, no, voi vedete cose raccontate. Racconti, okay, di impressione. Esatto, quindi la categoria è film e TV, pensate. Insomma, no, poi, non solo film e TV. Vabbè, però la categoria è quella, non romper cazzo. Perché non potevi mettere intrattenimento? No, c'era film e TV. Se no dovevo mettere hobby. Hobby, certo. Va bene? Walter Sbano. No, io intanto però ringrazio Olivia e Marco perché mi hanno evitato di vedere questa stragrandissima rottura dei coglioni di Avatar. Sì, non ci sei andato comunque, però loro me l'hanno confermato, esatto, quindi grazie. Esatto. Si sono immolati per noi. Però ti sei perso la scena del pesce che è. Esatto, quella è il momento, quella è la cosa che ha sconvolto tutto il film. Se no altrimenti sarebbe stato un capolavoro. Ricordiamo Walter Sbano domani sera ancora, quindi martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 con le orazioni della sera, giusto? Esatto, sì, ci sentiamo domani. Cioè, pregna questa settimana, pregna. No, questa settimana questa si bestemmia allegramente. Viva la pregna, come si dice. Viva la pregna, che Dio la benepregna. Mentre che vi ricordo che giovedì sera, cioè quando eravamo futuro, ci doveva essere giovedì scorso, ma finalmente torna. Invece domani sera alle 21 saremo in diretta con i ragazzi Test the Fear, perché ascolteremo insieme l'ultimo episodio della nuova scuola cinica e poi dopo, alla fine dell'episodio, faremo delle domande, insomma, in modo che cercheremo di capire altre curiosità, altri progetti, altri racconti che verranno sempre su Runtime Radio il martedì sera con la Horror Night, e venerdì sera invece alle 21 c'è il Runtime Denied. No, c'è alle 21 c'è ho visto cose e poi dopo Runtime by Night torna alle 23. Io ci sto a capire niente. Vabbè, ma tu capisci in cazzo. Una cosa è il podcast quando esce, una cosa è quando viene trasmesso su Rantan Radio. Ah, ok, okay. Ora sono molto più cose. Salutiamo Carmine Puccio Console. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Vi lascio con il brano della settimana che avremmo dovuto far sentire prima, ma siccome è lungo ve lo facciamo sentire adesso. Il titolo, dal titolo. Grazie a tutti, e lo dice lui. Ciao.